Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Il fatto che ci sia replica sul fianco delle vostre pistole e che invece ci sia Desert Eagle punto 50 sul fianco della mia dovrebbe precipitare di colpo te e le tue palle nel tuo buco nero. Andate. Buongiorno, avete sentito parlare di pistole? La citazione di apertura, la clip di apertura è tratta da Lo Strappo, un film di Guy Ritchie nel quale le pistole sono protagoniste, insieme a malavitosi, scommesse, partite di droga truccata, incontri di box, ecco, pistole, perché oggi parliamo di pistole, solo che l'argomento della puntata sono le pistole a spruzzo, per spruzzare le sostanze chimiche o di tessitura nella concia. La costruzione di queste pistole è particolarmente delicata, ha importante impatto ambientale ed è un punto di pregio della nostra manifattura. Il nostro ospite di oggi è Anna Paola Trione, che dirige una piccola azienda boutique, un gioiello che si chiama Aircom. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a lei. Pistole montate su giostre. Esatto, pistole automatiche montate su giostre di spruzzatura, dedicate principalmente al settore conciario, che è quello nostro storico di riferimento, e poi marginalmente anche ad altri ambiti che stiamo andando a sviluppare. Voi siete a Castellamonte, tra Torino e Ivrea, e sì? Questa cosa è sorprendente perché il settore conciario tutti lo immaginano ad Arzignano. Esattamente. E nel Veneto. Esattamente, quelli sono i poli conciari assieme a quello di Solofra in provincia di Avellino, i principali rimasti in Italia, ma negli anni metà 60 e 70, quando è nata anche la nostra azienda, in realtà anche in Piemonte era fortemente presente come settore. Quello che mi ha colpito della vostra azienda è che voi riuscite a essere competitivi con 1 milione di euro appena di fatturato e avete una redditività lorda, un margine operativo che alle volte può arrivare al 40%. Questa cosa, secondo me, è veramente notevole. Sì, su alcuni dei nostri prodotti, infatti, è quello il margine che lei ha detto. Lo so che non le fa piacere dirlo, perché poi magari i clienti in ascolto le chiedono lo sconto. Dice, vabbè, cavolo, con quel che ci guadagni. Quello lo chiedono comunque, fa parte del gioco. Sì, noi rimaniamo competitivi come? Investendo sicuramente in innovazione sia dal punto di vista di macchinari che di progetti, perché i nostri prodotti sono da noi studiati, quindi investiamo in collaborazioni con enti esterni, centri di ricerca e quant'altro. In innovazione, appunto, in macchinari sempre più evoluti che possono anche lavorare e produrre non presidiati, quindi durante le ore notturne, per dire, o al fine settimana senza dover avere gli operatori presenti. E in più investiamo in argomenti un po' nuovi per il nostro settore, che sono design e tutto quello che oggi viene detto con... Insomma, quindi le pistole per spruzzare le sostanze chimiche per la concia devono essere belle, ma perché? Devono essere belle, allora, non tanto per quanto riguarda il mercato nazionale, che forse è ancora meno legato a questo aspetto, ma noi in realtà esportiamo ormai quasi l'80% delle nostre pistole per spruzzatura, e mercati esteri come ad esempio il Far East, che per noi è importante, fanno molta attenzione anche all'aspetto estetico, che se in realtà la sua funzionalità, l'importante è che la faccia bene, come qualità di spruzzatura nel nostro caso deve anche essere bello, proprio una cultura di quella. Va bene, la devo interrompere perché ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma restate con noi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Fabbrica 2.4. Il fatto che ci sia replica sul fianco delle vostre pistole e che invece ci sia Desert Eagle punto 50 sul fianco della mia dovrebbe precipitare di colpo te e le tue palle nel tuo buco nero. Andate. Pistole, pistole, pistole, pistole, pistole. Oggi parliamo di pistole e per questo vi abbiamo fatto sentire una clip di Guy Ritchie, regista del film The Snatch. Ma le pistole di cui parliamo sono quelle per la verniciatura, in particolare per la spruzzatura di sostanze per la concia della Aircom, nome commerciale di un'azienda che si chiama Apness, e la sua managing director, che è il nostro ospite, Anna Paola Trione. Senta, ma sulle pelli da conciare che cosa si spruzza? Diversi componenti chimici che vanno da quelli che servono per il trattamento della pelle dopo la concia. Noi conti che la spruzzatura è l'ultima fase della lavorazione della pelle, ha proprio veri coloranti che danno i vari effetti che noi vediamo, che sono tutti i prodotti che si acquistano nei negozi, arredamento, macchine. E quindi c'è tutto l'aspetto del non spreco, della tutela dell'ambiente, che per voi è importante? Assolutamente, molto importante e ci sta molto a cuore. Infatti diciamo che il nostro ufficio di progettazione ormai ha l'input di progettare prodotti, pistole per spruzzatura, sempre più attenti anche a queste cose, sia dal punto di vista di materiali utilizzati nella produzione e sia anche dal punto di vista di quanto le nostre pistole riescono a non far disperdere vernice nell'aria, nell'atmosfera durante la fase di, appunto, di spruzzatura, di lavoro. Ci sta talmente a cuore che dall'anno scorso noi stiamo facendo controllare e testare le nostre pistole da un centro di ricerca tedesco a Stoccarda, si chiama la IPA, è un enorme centro di ricerca che in base alla normativa europea dice se le nostre pistole hanno un'elevata efficienza di trasferimento o meno. Detto in parole povere, quanto prodotto rimane sulla pelle o sul prodotto verniciato rispetto a quanta viene dispersa appunto nell'aria. Ecco, e voi avete l'80% di esportazione del vostro fatturato, quindi alla fine di Arzignano ve ne potrebbe anche importare poco. No, ce ne importa tantissimo in realtà anche di Arzignano e dei poli conciari in Italia, perché il 15% della produzione mondiale comunque viene ancora fatta qui sul territorio nazionale. Tutto il resto ormai si è spostato extra Europa, nel senso che nel Far East si crea gran parte della produzione, piuttosto che anche Centro e Sud America, per citare delle altre zone nel mondo. Quindi ovviamente sono mercati per noi ormai imprescindibili per rimanere vivi e per crescere, insomma, sempre di più. Anche se in realtà poi la nostra futura crescita la vediamo molto in settori alternativi a quello conciario, cioè, o più che alternativi in aggiunta. Ad esempio il primo che viene in mente è il settore del legno, quindi dell'industria. Senta, del legno. Quindi l'industria del legno, la ceramica, certo, sì, perché poi la spruzzatura, la plastica. Poi soprattutto ultimamente la ceramica un po' sta sostituendo il legno, perché ci sono queste piastrelle che sembrano di legno, in realtà è ceramica. Vero. Certo, assolutamente, come anche la pietra, stesso discorso, viene sostituita ormai da porcellana, insomma, da ceramica, sì. Che a livello di compatibilità ambientale è anche meglio, perché il legno consumi suolo, consumi risorse della terra, con la ceramica, no? Certo. sicuramente. Ecco, lei parlava dell'ufficio progettazione, uno si immagina un ufficio con tanta gente, poi in realtà in tutta l'azienda siete in 9, quindi l'ufficio progettazione sarà uno solo che magari fa anche un altro lavoro. No, non fa un altro lavoro, è occupato a tempo pieno quotidianamente su seguire le innovazioni. Lei conti che ormai noi ogni anno usciamo con uno o due progetti nuovi, che possono essere un numero magari non altissimo rispetto ad altri settori. Comunque il vostro segreto è l'elevata automazione. A me questa azienda, di là del fatto che ci siamo divertiti a giocare sulle pistole e sulla clip, a me questa azienda interessava perché è un'azienda che ha un EBITDA alto che può arrivare al 30%, elevati investimenti ricerca e sviluppo, lavora con capitali propri ed è super automatizzata. Il fatto che sia super automatizzata permette a questa azienda di essere competitiva pur facendo appena 1 milione di euro di fatturato e avendo appena 9 dipendenti. Vedete, l'Italia, soprattutto l'Italia industriale, è sempre più polarizzata. Ci sono delle aziende che sono circa un quinto, e cito le stime di Salvatore Rossi, di Fulvio Coltorti e una recente indagine di Mediobanca. Dicevo, ci sono delle aziende che sono circa un quinto del totale, che hanno poco debito bancario e molti mezzi propri, hanno grandi investimenti in ricerca e sviluppo, investono molto, esportano molto, sono molto automatizzate, sono managerializzate, hanno elevata produttività, e queste sono un quinto. Poi c'è un quarto circa che è totalmente a catafascio, e in mezzo ce ne sono altre che vanno motivate e portate verso quel quinto. Però l'Italia vive grazie a quel quinto di aziende che sono fatte così e che trainano tutto il resto. C'è un bel libro sulla manifattura, finalmente si fanno libri sulla manifattura, che si chiama Che cosa sa fare l'Italia, e l'hanno scritto Anna Giunta e Salvatore Rossi. La prima è una docente universitaria, secondo è direttore generale della Banca d'Italia, e parla proprio della manifattura italiana e dell'economia italiana, e dice che la struttura produttiva dell'Italia è cambiata profondamente in questi 10 anni di crisi. Si è polarizzata, quindi imprese che investono molto, molto automatizzate, che fanno molta ricerca e sviluppo, che vanno molto all'estero, imprese che invece sono all'opposto e tirano a campare, e in mezzo un grande mediocritas che non è affatto aurea. E allora c'è questa radiografia delle imprese che hanno vinto nonostante la crisi e il sistema paese. L'assunto del libro che vi segnalo e vi consiglio è che l'identità di una comunità consiste in che cosa sa fare. Però vi devo dire anche che è un libro che ha un fortissimo limite. Cioè, visto che si propone di dare le ricette per far crescere quelle imprese che sono nell'aura mediocritas, poi di politica industriale praticamente non parla. Allora, torniamo alla signora Trione, anche perché poi su questo libro intendo ancora tornare domenica prossima. Che dice lei? L'identità di una comunità consiste in ciò che sa fare? Sì, sì, concordo, ho ascoltato anche con molto interesse quello che ha detto e mi procurerò il libro. Ma soprattutto deve procurarsi il mio, che si chiama Industriamo l'Italia, e che secondo me, meglio di questo qua, il mio pubblicato da Magenes, parla della politica industriale. Ma quindi lei ci crede nel manifatturiero? Io ci credo nel manifatturiero, un po' per forse DNA familiare, un po' perché comunque è quello che continua a trainare il nostro paese. Diciamo che ormai essere imprenditore è un po' una missione, anche se vogliamo, in questo Ma speriamo che non sia una missione impossibile, storico, parafrasando Tom Cruise. Speriamo proprio di no. Diciamo che noi abbiamo un know-how tecnico che ancora fa invidia a molti altri paesi. Oltretutto io ho la fortuna di star nata in Canavese, che è la zona del Piemonte dove a pochi chilometri avevamo l'Olivetti, che ci ha lasciato comunque un'eredità di tecnologia, di conoscenze, sia appunto di know-how tecnico che di idee rivolte al sociale, che aiutano comunque gli imprenditori che sono qui, perché lo respiriamo ancora tutti i giorni senza fare. E voi lo tenete lì anche perché passato. Grazie a un'elevata automazione non è che aziende come la sua hanno bisogno di delocalizzare, hanno poche persone molto qualificate e automazione esasperata, e questo aiuta anche a sbaragliare la concorrenza che c'è in tutto il mondo. Noi veniamo copiati, come anche per carità altre aziende, ma veniamo copiati ormai da paesi come il Far East, dove vendiamo, ma ci copiano molto e li sbaragliamo con questi investimenti, insomma. Ecco, io andrei avanti a parlare con lei per ore e ore, ma qui dalla regia mi stanno facendo i gestacci, perciò salutiamo la signora Trione che dirige questa bella azienda che fa pistole a spruzzo per verniciatura e tanti altri scopi, e le auguriamo il massimo successo. Arrivederci. Grazie. Dottoressa, saluto. Arrivederci. Tutti gli ascoltatori, ci sentiamo sabato prossimo alle 14:00.